Tutto. Ok, allora andate voi così avete la traccia lì. Se mi dai solo 5 secondi, prendo un attimo delle punte. Sì, io allora chiudo Mix. Aspetta, lo chiudo. Sei tu che fischi? Sì. Ah, okay. Uno, due, mi senti? No, io non ti sento più. Ecco, Senti? Fede? allora. Non ci sente Sì, Federico? Un momento. mi sento, Ah, mi ok, sento, perfetto. mi sento, mi sento. Perfetto. Oramai sono diventato bravissimo a risistemare gli audio e a capire che perché cacchio non funziona. Tanto non funziona mai. Mi ha sempre risistemato all'ultimo momento, non c'è verso. Cosa? C'è più ogni volta c'è suspense. Sì, vabbè, ormai ci siamo abituati. Allora, Eugenio, vuoi fare una prova? Ti arrivo forte e chiaro? Tu mi arrivi forte e chiaro, forte e chiaro. Benissimo, a posto. Cerco solo le braccette. Mamma mia, ragazzi, l'altro giorno con Roberto ho fatto un esercizio Stata di non dura. pazienza. Sì, ho visto. Buono Roberto. Però Fede, ti posso dire che tu sei stato bravissimo, perché all'inizio c'è stato proprio un attimo che ho temuto, e invece sei stato dolcissimo lo stesso, malgrado il suo tono da Speriamo. provocazione. No, No, ti perché assicuro, guarda, l'ho io gliel'ho notato proprio. chiesto in tutti i modi possibili, gliel'ho chiesto di non fare troppo sentire che stava facendo pubblicità alla sua iniziativa, parlare un po' più generale. Invece è proprio partito a mille, ma è proprio lui che è proprio così. Cioè. Lui non ce la fa, ma lui non ce la fa proprio al suo modo, capito? Non è che lo faccia così, c'ha quella vocina un po' piglio. Ho pazienza, vabbè, ho fatto un po' l'esercizio. No, ma te, se, Esercizio. guardi, non te lo dico così tanto perché veramente sei stato grande. Un francescano proprio. Sì, ieri sera, Fede, quando siamo rientrati dall'incursione. Qui sotto, sai quella chiesetta che c'è sotto casa? C'era un raduno di francescani che pregavano. Arrivavano anche da Tortona per sostenere le comunità qua, dei francescani qua. E ce Ma n'era uno lì in figurati. mezzo alla via, inginocchiato a terra. Chiaramente è tutto marketing, quello lì. Certo. Marketing delle religioni, siamo tutti bravissimi. Ma non hanno arruolato il nostro Eugenio lì. No, volevo buttarmi dentro il francescano giovane che gli ho chiesto, no, come mai, cosa facessero lì, eccetera, perché comunque era mezzanotte praticamente, e, insomma, era abbastanza strana come cosa, e mi voleva buttare dentro a pregare con loro. Poi alla fine l'ho ascoltato tutto bene, ho detto, guarda, mi spiace, ma non sono cristiana. Vabbè, allora prego io per te, mi ha detto. Carino. Sì, è stato francescani comunque sono teneri, dai. Dice, non li impicchiamo con le budella all'ultimo prete, no? Allora, io direi che boh, Possiamo andare? sì. Che facciamo? Andiamo, sono 11:30. Aspetta che Sì. metto l'avviso sulla chat. Ascoltatore, outbox. C'è un po' di problema a mandare la musica, però per il resto Ma quando guardate che vanno a rimanga. mandare.

Siete stati bravissimi, bravi, bravi. Hai detto persino cose intelligenti.